Una buona serata a tutti voi, ben ritrovati all'appuntamento consueto serale dalle 20 alle 21 su Rock FM, la voce di Marco Gravelli con voi, con lo spazio di Arden Davy. Come al solito vado a ringraziare il nostro autore Simone, che ha preparato tutti i testi e la scaletta di questa sera, e il nostro sponsor Mariposa Dischi, corso Lodi numero 1 a Milano. Sito internet www.mariposadischi.it. E apriamo con i Taichetto, band americana, mi è stata anche richiesta, tra parentesi, dedita ad un ottimo AOR, soprattutto con l'album d'esordio intitolato Don't Come Easy. Siamo nel 1991. Sfortuna per loro è che sono vissuti nel periodo in cui stava nascendo il grunge, pertanto non riescono praticamente a raggiungere il mega successo. La formazione è composta da quattro elementi, il cui leader era il cantante Danny Vaughan, oggi attivo come cantante solista. Fu lo stesso Danny che creò i Taichetto nel 1987, in seguito alla sua fuoriuscita dai Wasted. A line-up ultimata arrivano all'esordio con l'album Don't Come Easy, che ottiene ottime recensioni. Dopo il secondo album, Strength in Numbers, del 94, Danny è costretto a lasciare la band per motivi familiari. Il suo posto è preso da Steve Augeri, con il quale hanno inciso il terzo album, Shine. Le vendite non soddisfacenti portarono allo scioglimento della band nel 96. I vari musicisti intrapresero carriere soliste nel 2004, ricordiamo una loro reunion per un tour nuovamente con Danny alla voce, per poi sciogliersi. Nonostante ciò, lo scorso anno è stata pubblicata una raccolta di canzoni inedite e demo version dal titolo The Last Sunset Firewall 2007. Abbiamo citato il primo album, che è stato poi ristampato 4 anni dopo, stampato naturalmente anche in CD. La canzone che ascoltiamo è una delle loro più famose e anche uno dei singoli per i quali vennero incisi anche il videoclip dell'epoca. Taichetto con Forever Young. Forever young. note sono quelle di Forever Young, singolo famosissimo dall'album d'esordio Don Camisi, uscito nel 1991, con il quale oggi abbiamo aperto l'appuntamento di Hard and Heavy, erano i Taichetto. Altra band americana abbastanza nota, che però ottiene successo nella metà degli anni 80, è quella degli Emerald Saint, che vedeva in line-up il bassista Joey Vera, che attualmente milita nei connazionali Fates Warning, e il bravo John Bush, che nel 92 entrerà negli Anthrax come cantante sino al 2005. Il gruppo fu creato all'inizio degli anni 80 e dopo la partecipazione alla compilation Metal Massacre volume 2 della Metal Blade Records pubblicano l'omonimo LP nel 1983 di 3 brani, che vendette ben 15.000 copie. Visto l'ottimo riscontro, arrivano all'esordio con March of the Saint del 1984, album che gli permette di andare in tour di supporto ai Metallica e agli Wasp. Seguono altri due album con la Chrysalis Records e quindi arriva l'importante ritorno alla Metal Blade, che pubblica un album live nel 1989. In seguito alla scomparsa del chitarrista Pritchard, avvenuta nell'89, avviene l'unico cambio di formazione con l'ingresso di un nuovo secondo chitarrista, con il quale pubblicano Symbol of Salvation del 91. A questo punto il gruppo si scioglie, dato che il cantante entra negli Anthrax, il bassista Vera, dopo aver pubblicato un album solista, comincia a collaborare con i Fates Warning fino a farne parte. Gli Armored Saint ad ogni modo si sono riuniti con la lineup classica per tornare sul mercato nel 2000 con l'album Revelation, che è attualmente il loro ultimo album in studio. Il lavoro che andiamo a proporre si intitola Delirious Nomad ed è il secondo album uscito nel 1985, che arrivò al numero 108 in America. Vabbè, un po' distante, un po' lontano dalle prime posizioni. Andiamo ad ascoltare il brano dal titolo Conqueror, Armored Saint. Constantly in the dance, and it was a chiudeva la side A di questo vinile intitolato Delirious Nomad dalle note di questa Conqueror per la formazione degli Armored Saint, che abbiamo ritrovato come sempre con i riallacci al passato nella prima parte del nostro appuntamento di Hard and Heavy. Arriviamo invece ad un lavoro uscito nel mese di settembre, è il secondo album Songs for the Lost per la heavy metal band americana degli Icarus Witch. Leader e fondatore è il bassista Jason Mayers. Dopo aver partecipato al tribute album ai Black Sabbath nel 2004, registrano un demo che coglie l'attenzione dell'etichetta Magic Records, che li mette sotto contratto e che pubblica un EP nel 2005. Poco dopo, l'album d'esordio Capture the Magic, per il quale fu realizzato anche il video della title track. Per quanto riguarda questo secondo lavoro, è stato pubblicato in Europa dall'etichetta di Roma Cruz del Sur. Si compone di 10 brani, delle quali una è la cover di Mirror Mirror dei Def Leppard, dove compare come special guest il cantante Joly Turner. Come il precedente, è stato prodotto da Eric Klinger dei Propane, che nell'album si occupa di suonare le parti di batteria. Li ascoltiamo con Out for Blood, sono gli Icarus Witch. Uscito nel mese di settembre del 2007, questo per gli Icarus Witch, il loro secondo album, Songs for the Lost. Il pezzo si intitola Out for Blood. Ritorniamo al passato, rimaniamo ancora in America, andiamo negli anni 70, gruppo molto famoso di hard rock, si chiamavano Angel. Nella lineup segnaliamo il cantante Frank Dimino e soprattutto il tastierista Greg Giuffria, che poi entra a far parte Crea e Giuffria e gli House of Lords. La loro particolarità era quella di esibirsi dal vivo completamente vestiti di bianco, e molto spesso vengono così raffigurati anche sulle cover dei loro album. L'esordio arriva nel 75 con l'omonimo album. I primi risultati di vendita si hanno nel 77 con il terzo, intitolato On Earth Has Its Heaven. mentre il loro miglior lavoro è considerato Wide Hot, che arrivò al numero 55 in America. Dopo l'album Sinful del 77 seguono raccolte, un doppio album dal vivo. Per arrivare ad un nuovo album bisogna attendere il 99 con In The Beginning, band che poi si scioglie, abbiamo detto, e alcuni loro componenti, come Greg Giuffria, se ne vanno in altre band. Dall'album migliore, White Hot, andiamo a proporre le note di Over and Over. Si chiamano Angel. Pezzo intitolato Over and Over, la formazione è quella di Angel che abbiamo ritrovato. E chiudiamo la parte dedicata al passato entrando in casa nostra. Andiamo in Italia, parliamo della Strana Officina, parlo di questo gruppo di Livorno perché la band suonerà anche questo sabato 26 gennaio a Lucille Rock and Roll House, questo nome del locale in quel di Verona. Gruppo storico del panorama heavy hard italiano, precisamente abbiamo detto di Livorno, gruppo che nasce alla fine degli anni 70 e che arriva all'esordio con un EP nell'84, mentre il primo album arriva 4 anni dopo, si intitola Rock and Roll Prisoner, che li vedeva cantare in inglese e non più in italiano come in principio. Gruppo che si scioglie a metà degli anni 90 purtroppo per la scomparsa dei due membri fondatori, cioè Fabio e Roberto Capanera, in un incidente stradale. La band si riforma 2 anni fa per volontà di Dario, nipote del chitarrista, e Rolando, figlio del batterista, tanto da suonare al Gods of Metal del 2006 come headliner nella giornata interamente dedicata alle band italiane. Questa sorta di reunion ha portato anche alla realizzazione dell'album The Faith, uscito lo scorso anno, con 12 tracce cantate in inglese che risalgono ai lavori passati ma per l'occasione completamente risuonati, più 2 inediti. Abbiamo detto che suonano questo sabato a Verona e li vado a proporre proprio dal loro primo EP, quindi l'incisione, tenete conto, non è il massimo, siamo nel 1984, Minotauro Records, il pezzo cantato in italiano, un loro motivo storico, si intitola Viaggio in Inghilterra, Strana Officina. Baby, just a viaggio. Verso una terra che io credo nella terra delle creature. Viaggio in Inghilterra con la strana officina, ripeto, questo sabato 26 saranno dal vivo a Lucille Rock and Roll House di Verona. Chiudiamo la prima parte di questa sera di Hard and Heavy con una novità, il secondo album in uscita questa settimana su Frontiers Record per questa band finlandese, si chiamano Leverage. L'album è nuovo, appunto si intitola Blind Fire. Il gruppo è stato creato dai due chitarristi, nella prima line-up era presente anche il cantante degli Urban Tail. In seguito cambiano la formazione, registrano altri demo, ottengono un contratto con un'etichetta finlandese che pubblica l'album d'esordio Tides, che arriva al numero 38 in Finlandia. Inoltre, il brano Superstition è stato scelto anche come sigla del campionato mondiale di hockey su ghiaccio. Tutto ciò gli vale un contratto appunto con la Frontiers, che ripubblica il primo album con due bonus track e poi questo nuovo lavoro che sta ottenendo delle ottime recensioni in tutto il mondo. Abbiamo detto il loro nome, Leverage, il pezzo che apre l'album è Shadow in the Rain. siamo entrati nella seconda parte dell'appuntamento, il primo di questa settimana, il terzo in replica naturalmente, con Arden Devi, la voce di Marco Gravelli con voi, con questa band americana di thrash metal che si chiamano Terabyte, thrash e doom metal, anche dal titolo della ristampa di questo EP d'esordio, cioè Doom Generation. Precisamente loro arrivano dal Texas, sono in tre, fondatori del gruppo sono i due fratelli Mad che crearono i Terabyte a metà degli anni 90. Il loro esordio è stato un EP dal titolo appunto Doom Generation, composto da 6 tracce, pubblicato nel 1998. Sono seguiti 2 album del 2002 e del 2004. A 10 anni da quel EP, la Locomotive Records, etichetta spagnola, lo ha ristampato in aggiunta di altre 5 tracce e abbiamo ascoltato proprio il motivo intitolato Doom Generation. Rimaniamo un po' sul genere perché il 28 gennaio arriva il terzo album degli Isole, una doom metal band svedese composta da 4 elementi, nati nel 90 quando si chiamavano Forlorn e con questo moniker hanno pubblicato solo alcuni demo per poi essere messa da parte per alcuni anni. È solo nel 2003 che un'etichetta li ha contattati per pubblicarne un album. Visto che era passato molto tempo, decidono di ricominciare con un nuovo nome e viene scelto appunto l'attuale Isole. Il loro debutto arriva nel 2005 con l'album Forevermore, seguito nel 2006 da Throne of Void. Grazie a questi due album ottengono un contratto con la Napalm Records, che come detto il prossimo lunedì pubblicherà, il 28 di gennaio, questo terzo album, Bliss of Solitude, che come i precedenti si compone di 7 tracce di un interessante doom metal. molto lunghi, abbastanza estesi, dall'album Bliss of Solitude. Il pezzo si intitola From Clouded Sky, si chiamano Isole, abbiamo detto, questa doom metal band che pubblicherà il 28 di gennaio il prossimo album che vi abbiamo proposto in anteprima. Arriva anche per questa sera il nostro consueto appuntamento con le Metal News. Partiamo parlando dei Vision Divine. In occasione dei 10 anni di carriera, la band italiana terrà un concerto evento il prossimo 23 febbraio al Tempio Rock di Gualtieri, provincia di Reggio Emilia. Per l'occasione saranno presenti molti special guest, come gli ex Fabio Lione dei Rhapsody of Fire, Oleg Smirnov, Matteo Amoroso, Riccardo Quagliato ed Andrea Torricini. Ancora in Italia con gli Storm Lord, l'etichetta Scarlet Records pubblicherà un doppio best-of per la band romana. Si intitolerà The Legacy, 17 Years of Extreme Epic Metal conterrà 2 CD, il primo con 13 brani tratti dalla loro discografia, comprensiva del loro primo EP. Il secondo CD conterrà un live registrato a Montreal il 14 giugno del 2006. Parliamo degli Illogistic, band italiana di death metal. La prestigiosa marca Jackson Guitar americana realizzerà proprio una chitarra esclusiva per il cantante chitarrista Luca Minieri della band death metal degli Illogistic. House of Lords si intitolerà Come to My Kingdom. Il nuovo album si comporrà di 14 tracce mixate dal celebre Dennis Ward. Uscita prevista per il 14 marzo su Frontiers Records. L'etichetta ha segnalato inoltre che la band intraprenderà un tour europeo tra primavera ed estate. Lacrime profundere. In uscita il 28 di marzo su Napalm Records, il nuovo album per la band tedesca si intitolerà Songs for Last View, prodotto da John Fryer, noto per aver collaborato con Nine Inch Nails e Him. In tema di line-up ricordiamo l'ingresso del nuovo cantante Rob Vitacca, questo per i Lacrime Profundere. Parliamo invece del gruppo di Sandalinas, anzi Frequency e Sandalinas, e arriviamo in questo modo perché a marzo su Scarlet esce il secondo album per la power metal band svedese, si intitolerà Compassion Denied e come vocalist ci sarà Rick Alzi, attualmente negli Advance, presente inoltre come special guest in una traccia il bravo cantante Daniel Heyman degli Heed. Riguardo appunto Rick Alzi, ha recentemente cantato nel secondo album dei Sandalinas dal titolo Fly to the Sun, uscito lo scorso weekend. In questo lavoro, oltre al leader chitarrista spagnolo, Sandalinas appunto, hanno suonato il batterista Patrick Johansson di Malmsteen, il bassista Mick Cervino dei Black Moon's Night, diversi altri special guest come Chris Caffrey dei Savatage, Andy LaRocque dei King Crimson e dei King Diamond, e Derek Sherinian, ex Dream Theater, quindi una super band, possiamo dire. Sandalinas, che andiamo a proporre ed ascoltare proprio con un estratto da questo Fly to the Sun. Il pezzo si intitola Never See Before. Can you tell me one more time? You never been before. melodico, e non male questo pezzo dal titolo Never See Before, dall'album dei Sandalinas, di cui abbiamo già parlato e presentato precedentemente anche un'altra traccia. Settimana scorsa è stato nostro ospite, stiamo parlando di Tobias Sam e degli Edguy, quindi in uscita alla fine di questa settimana il terzo album del progetto Avantage, appunto lui è il leader. Progetto che nasce nel 2000, quando a sorpresa arriva un concept album dal titolo The Metal Opera, che vede la presenza di prestigiosi ospiti. Due anni dopo esce la seconda parte del concept The Metal Opera Part 2, con un'altra carrellata di ospiti che arriva al numero 17 come album in Svezia e Germania. Sembrava che il progetto fosse terminato, quando, a causa forse della grande richiesta dei fan, alla fine del 2006 è stata annunciata la preparazione di questo terzo album, The Scarecrow, nuovo concept, staccato, completamente differente dai precedenti. L'album è stato anticipato dal singolo Lost in Space, che è arrivato al numero 9 in Germania, ed poco fa è uscito anche il secondo singolo Carry Me Over. Per quanto riguarda l'album, come vocalist ci sono Oliver Hartman, ex Advance, Roy Khan dei Camelot, John Land ex Muscle Plane, Bob Catley dei Magnum, Michael Kiske degli ex Halloween e Alice Cooper. Alle chitarre invece i chitarristi dei Gamma Ray, Kay Jensen e Henio Richter, Rudolf Schenker degli Scorpions, Sasha Peth, alla batteria Eric Singer dei Kiss. Il progetto è appunto Avantasia, il pezzo si intitola Devil in the Belfry, dove oltre a Tobias alla voce c'è John Land. Avanteja, Avanteja con il doppio cantato Tobias Sammet insieme a John Land. Il pezzo si intitola Devil in the Belfry, dal lavoro concept appunto intitolato The Scarecrow, che abbiamo parlato, abbiamo presentato settimana scorsa in intervista con Claudia proprio insieme a Tobias, e uscirà alla fine di questa settimana. Ultimo brano legato ai Crematori, gruppo già storico del panorama gothic metal, nato 17 anni fa, creato dall'ex chitarrista e dal batterista. Uscirà il 1 di febbraio questo nuovo 11° album dal titolo Prey. Il gruppo arriva dalla Germania, l'esordio arriva nel 93 con l'album Transmigration, pubblicato dalla Massacre Records, che ne pubblicherà i successivi tre lavori sino all'omonimo album. Poi c'è l'importante passaggio alla Nuclear Blast, che li ha pubblicato tutti gli album sino al live del 2005, e questi album in studio entrano tutti nelle classifiche tedesche nei primi 50 posti. In occasione del precedente lavoro c'è stato il ritorno alla Massacre, che pubblicherà, abbiamo detto, il 1 febbraio questo nuovo Prey. Io a questo punto vi lascio ai Crematori, il pezzo che ascoltiamo si intitola proprio Prey. Vi rimando all'appuntamento di domani sera 20:21, naturalmente qua su Rock FM, Hard and Heavy, offerta da Mariposa Dischi, Corso Lodi numero 1 qua a Milano. Un grazie a tutti voi per avermi seguito, un grazie al nostro autore Simone, a domani, ciao ciao! Listening to a new promotional CD, which is property of Massacre Records. Tonight, we will.